spettacolo che ha fatto nel frattempo, può andare con un amico nei locali a luci rosse per provare l'ebbrezza di confondersi con gli altri. Con questo tipo vanno a casa anche di una coppia di orribili cinquantenni di Prato. Ma giunta sul più bello, lei si vede riflessa in uno specchio e si fa schifo. Io al suono di questi racconti, forse per paura di perderla per sempre, la prendo con forza e le vengo dentro. Decidiamo quindi di andare in un consultorio per farci dare la pillola del giorno dopo. La dottoressa è più giovane di noi due, capisce subito l'aria che tira e la cazzata che abbiamo fatto. Le sue parole sono dure e benefiche, come le raffiche di vento di mattina, che aiutano a svegliarsi. dicevamo dunque di questa canzone che parla di questi ragazzi, di questi, perché dobbiamo dire che sono i ragazzi soltanto quelli che si innamorano, è una deformazione del mainstream sicuramente, al quale noi ci opponiamo con le nostre estremate forze, ecco. C'è questa coppia dunque di innamorati che va a vedere il fiume, l'Arno di Firenze, vede tanti pesci, vede tante cose belle e alla fine c'è questo fantastico tramonto, il tramonto che è la metafora della fine della loro relazione, poi i progetti che ancora si fanno, non ci si vuole arrendere a questa idea di una relazione finita, si continua a dire beh facciamo questo per le vacanze, andremo qui, faremo questo, come tutti, un po' tutti. Però Fiumani si chiede, ma come mai non siamo come tutti gli animali che quando capiscono che è il momento di emigrare migrano? Invece no, noi rimaniamo lì, proviamo ancora, facciamo progetti. E alla fine niente, è tutto finito, è tutto lì, va a finire sempre male. Oddio, siamo veramente messi male, sì, lo sappiamo. Una nostra amica ieri, durante un presidio, ci ha visto e ci ha osservato e ha detto, no, sei peggio di prima. Ebbene sì. A ogni modo, buon ascolto su Radio Transizione di Fasi, questo fantastico pezzo che vi ricordo è una cover dei Diaframma. Infatti Diaframma sono soliti fare queste cose anche e riescono spesso molto bene. Questa cover comunque, vi ripeto, ha le parole diciamo riadattate dal Fiumani. Ci scusiamo con la qualità comunque del registrato, perché è fatto su una vecchia cassetta, quindi non è mai stato pubblicato questo pezzo. Speriamo che un giorno i Diaframma vogliano fare questa cosa, vogliano cioè pubblicare il pezzo, e noi ce l'auguriamo, che è veramente veramente molto molto molto molto bello. Quindi ascoltate questa canzone e continuate a seguire Figli di nella sua veste ridotta di oggi ai noi. Il privilegio definitivo tramonto. E ancora continuiamo a parlare di tragicità nell'amore, o meglio, ma non è nemmeno tragicità alla fine, insomma, sono queste le vicende umane e quelle più belle alla fine, che ci a volte impediscono davvero di pensare alla tristezza di questo stato di cose attuali, quantomeno, no? Si parla sempre di precarietà, di vita di merda, di tagli su tagli, di mancanza di libertà, e queste sono tematiche tutte reali, tematiche che davvero ci affliggono molto, e tematiche che, insomma, noi affrontiamo ogni giorno quotidianamente, come tutti del resto, chi in maniera magari più consapevole, chi no, a ogni modo tutti quanti noi indistintamente viviamo questo periodo buio, questo periodo di merda, lo diciamo proprio tranquillamente. Però l'amore, sia che vada bene, sia che vada male, alla fine ci permette un po' di sopravvivere, come diceva Fiumani, insomma, in quella canzone che abbiamo ascoltato prima, tu sei una droga per me. E beh, l'amore è proprio questa forma di droga che ci permette di sopravvivere, è sicuramente meglio di una droga, perché alla fine le droghe ci danno l'impressione di sopravvivere, ma alla fine ci scattano proprio, insomma, quindi non è consigliabile. Meglio innamorarsi di qualcuno, pure il primo che passa in mezzo alla strada, piuttosto che, insomma, incalarsi una pastiglia, questo è chiaro, è ovvio. E continuiamo però a parlare, insomma, di questo amore che va a cazzi, e parliamo anche di questa tematica poi che troviamo anche nei diaframmi, insomma, di questo amore che viene ricordato dopo tanto tempo che una storia è finita. Magari capita, può capitare, boh, non sappiamo, che si rifletta sul passato e si dica, beh, in fondo qualcuno mi ha amato. E proprio qualcuno mi ha amato è il titolo di questa canzone che andiamo ad ascoltare, che è contenuta in Scenari immaginari, un disco dei diaframmi del 1998. Ebbene, qua c'è proprio questo tema del ricordo di un amore, e soprattutto vediamo qual è il leitmotiv poi di diaframma, che è quello di un amore che rende di nuovamente vivi e felici, e che non è che sia proprio questa tematica, voglio dire, sconvolgente, però il modo in cui questa viene posta, la tematica, cioè il modo in cui diaframma, Federico Fimani, la pone nei suoi testi, è quello che maggiormente interessa, la verità e la vividità con la quale sono scritti questi testi è quello che colpisce di più. Quindi l'amore, che cos'è? È questa cosa che rende nuovamente, leggiamo testualmente, le labbra smorte e grigie erano di nuovo felici, e rosse di sangue e di emozioni forti, da non raccontare agli amici. Beh, forse proprio questo fatto ci fa riflettere molto. Comunque, beh, niente, non riflettiamo più che è meglio. comunque questo ricordo dell'amore, che è riconosciuto come tale proprio per una serie di sensazioni diverse che dà rispetto ad altre situazioni, un amore che non ci fa avere la necessità di avere un diario, un luogo cioè dove sfogare le nostre tensioni magari, Quindi continuiamo ad ascoltare i nostri ospiti in contumacia, i Diaframma, con questo pezzo, ve lo ricordo, Qualcuno mi ha amato, di Scenari immaginari del 1998. Qualcuno mi ha amato, me lo ricordo, perché le labbra smorte grigie erano di nuovo felici, rosse di sangue e di emozioni forti da non raccontare agli amici. Qualcuno mi ha amato e nei miei occhi c'era una luce forte che io non ho mai più trovato, me lo ricordo, di quella luce forte che io non ho mai più trovato. Qualcuno mi ha amato, qualcosa è rimasto, e per un tempo che non è stato scritto mai dentro a nessun calendario, ma non mi importa. Quelli erano giorni forti oltre ogni mio immaginario, non mi serviva il diario. Ebbene sì, figli di ritorna questa volta con un'altra diciamo variante del tema amoroso. Abbiamo parlato di che cosa significa scoprire l'amore, essere innamorati, tutti contenti, tutti felici, wow. Poi ci siamo fortemente dilungati su quello che invece significa scoprire che si tratta di un falso amore, insomma, o soprattutto scoprire che la storia d'amore è finita, e quindi tutte le varie sensazioni ad essere legate, la sensazione di straniamento, la dissociazione, i dubbi che si hanno di fronte a una vita innanzi al fallimento dell'amore. Però, ed è per questo motivo che ci piacciono i diaframmi, Federico Fimà, ci offrono sempre una via di uscita, insomma. Dopo tutta sta bellezza, viva, ci siamo innamorati, dopo che il cazzo d'amore è andato a merda, la storia è finita, siamo tutti disperati, piangiamo lacrime dentro, dopo tutto ciò però, possiamo sempre ripartire. Ed è questa la bellezza dei diaframma, questa è la cosa che insomma ci fa stare veramente molto bene, perché dopo un amore se ne va un altro non sappiamo, ma comunque si va sempre avanti. Si va avanti malgrado tutto. Infatti il prossimo brano che ascolteremo è questa canzone Le Alpi, contenuta nell'album Anni Luce del 1992. In questa canzone ci sono una serie di tematiche già presenti in altre canzoni che abbiamo ascoltato, dunque c'è questa idea dell'amore, del ricordo dell'amore, per esempio appunto la parola di inizio di questa canzone è mi ricordo, questo termine ricordo, dunque posto a inizio verso, dà molto senso, dà molto, molto pregnanza al significante del termine stesso, e come avviene insomma in gran parte delle poesie che possiamo leggere un po' qua, un po' là, insomma, se vi piace leggere le poesie. Quindi vi ricordo, facendo una lezione di letteratura italiana, che alcuni termini molto importanti, molto pregnanti, vengono sottolineati ponendoli a inizio verso, e quindi questo mi ricordo un po' di tempo fa. Con mia moglie litigavo già, questa rima insomma, vabbè, un po' vabbè, però ascoltandola poi nella canzone ci sta. E dunque questo Fiumani ricorda questo amore che ha vissuto quando aveva 20 anni, di questa sua moglie con la quale già litigava, però ricorda poi di questa gitarella che si fa che verso le Alpi, questa metafora che noi possiamo quasi accostare all'ascensione al Monte Ventoso di Petrarca, questi riferimenti proprio letterari non so se ci stanno, però a noi piace farli, quindi li facciamo, non ci interessa. Questa ascensione al Monte Ventoso, questa salita alle Alpi è metafora di un cambiamento di questo viaggio che non finisce mai e che rappresenta poi il viaggio stesso della vita alla fine, e i vari problemi che hanno avuto le varie auto degli amici, le fermate, gli errori di strada, strade mai viste che vengono percorse, e alla fine leggiamo insomma queste affermazioni nel testo, in cui Fiumani afferma che ora è chiaro che non durerà l'entusiasmo per la novità. Quindi ancora vediamo queste rime baciate che si ripetono, vabbè. E questo avevo vent'anni, quindi questi amori giovanili che sembrano fantastici, straordinari, e che alla fine poi sono forse più belli perché rappresentano l'entusiasmo per la novità, ci si innamora per le prime volte seriamente, quindi no, si è tutti presi, wow, che bello, evviva. E forse questo è il motivo per il quale questi amori si ricordano di più, non sappiamo. Però sì, può essere. Però niente, l'entusiasmo per la novità passa anch'esso, e si ritorna ancora una volta verso le vecchie strade, le strade conosciute, e un senso di vecchio ci sorprenderà, canta Fiumani. Però è il ricordo che ho dentro che mi spinge a cercarla la novità e a rimettermi in viaggio in queste strade mai viste. Perché per vivere mi basta un sorriso, dice Fiumani, per ogni giorno che puoi dare a me. Perché per vivere mi basta un sorriso per ogni giorno che puoi dare a me. E dopo questa ripetizione un po' sconclusa da parte nostra, vi lasciamo a questa canzone Le Alpi, che è veramente molto bella, perché alla fine che cosa ci dice? Che questo ricordo dell'amore che è stato ci spinge poi ad andare oltre e a cercare nuovamente questa novità che ci darà nuovamente con le stesse sensazioni, e che alla fine ci fa capire poi una visione particolare dell'amore secondo i diaframma, secondo Fiumani. E l'amore poi alla fine è questo sentimento unico che noi forse andiamo a ricercare in varie persone, ma che alla fine segue delle determinate, diciamo così, dinamiche. Detta così sembra brutta, sembra una cosa fredda, però forse è proprio così. Il ricordo dell'amore stesso, di un amore passato, poi alla fine ci fa andare avanti e ci fa cercare anche altro, ci fa cercare altre storie, altri amori, altre vicende. E meno male che sia così, altrimenti non ci resterebbe altro che suicidarci dopo il primo amore fallito, insomma. E qui, a questo punto, almeno io che sto parlando qui sarei già morta non so da quanto tempo. Quindi no. Nessuno mai si deve ammazzare per cose del genere, no. Il ricordo dell'amore, anche se è finito, anche se ci ha fatto stare male, insomma, niente, ci deve far andare avanti, ci deve far sorridere e ci deve far ricordare la bellezza di quell'amore. Quindi, al di là della delusione, della rabbia, di tutto quello che vogliamo, c'è sempre un qualcosa di bello che andiamo a ricercare. Quindi ascoltate questo pezzo e a fra poco. Colpo nel sole immenso e non c'è modo che sbagli più. e la prima a mettersi nei guai fu l'auto di Mauro, che si guastò. Previsioni del tempo, la vita fede che importa, ormai siamo qua, e non c'è modo che sbagli più, in queste strade mai viste, perché per vivere mi basta un sorriso, dentro ogni giorno che puoi dare a me, perché per vivere mi basta un sorriso, dentro ogni giorno che puoi dare a me. Fai tutto quello che vuoi e gioia sarai, splendore per me e gioia di vivere. Al mattino il più bel sogno farai o ti sveglierai e accanto ti avrai la gioia di vivere. Siamo qui alle officine per questo programma Figli di, come vi dicevamo, aspettiamo qui che passi qualcuno e finalmente questo qualcuno è passato. Abbiamo con noi la nostra, una nostra amica, Virginia, e insomma stiamo ascoltando poi queste canzoni di Diaframma, stiamo discutendo un po' così in questo fantastico capannone, mentre di là c'è chi sta preparando la bancarella delle officine per la fiera di San Giuseppe. E siamo qui insomma con Virginia e ci stiamo interrogando fondamentalmente su quello che vuol dire questo cazzo d'amore, insomma, queste varie fasi, le fasi alterne di questo sentimento, di questa cosa, non sappiamo che cosa sia, insomma, boh, noi non lo sappiamo. Insomma, Virginia, insomma, questo cazzo d'amore, no? Che secondo te, cioè i Diaframma, no, ci parlano di questo fatto che c'è quest'amore così, colà, che è bello quando tu ti innamori, poi però c'è la grande mega delusione quando tutto finisce e ti deprimi, dici ma cazzo di vita, di merda, eccetera, eccetera, eccetera. E a un certo punto però dici, no, però io qualcuno mi ha amato, quindi questo amore che ho vissuto è anche se è stata questa delusione, no, però è, ha avuto dei momenti belli e questa illusione, insomma, che c'è, ci fa andare avanti a cercare nuove strade, diciamo così. Mo, tu, la tua visione invece, come noi da fan dei sfegatati, dei Diaframmi, insomma, siamo abbastanza vicini a questa visione, dobbiamo ammetterlo, ma chi magari, ecco, come Virginia, che non segue molti Diaframma, credo, anche se ti piacciono, io so di sì. Sì, però non li seguo. Ho questa visione invece dell'amore, per sentire, insomma, un'altra campana, va, diciamo così, ecco, come può essere? Condivido in pieno il loro pensiero, concordo pienamente con quello che dicono e io sono nella fase in cui in cui bisogna ripartire, nonostante, insomma, va, non lo so perché va sempre male, però c'è sempre quella speranza nel nostro cuore, nel mio cuore, non so, quella voglia di ripartire, quella forza che ti viene dopo la delusione, dopo le tante bastonate che uno prende. Non si sa perché, voglio dire, io e la mia cara amica Maria prendiamo sempre queste bastonate, non lo so, forse non siamo, in grado, non siamo in grado di scegliere, non lo so, questo è... O siamo sfortunati, ma esiste, siamo sfortunati o forse siamo fortunati, però tu come la vedi in questo? Siamo fortunati perché magari abbiamo possibilità di esplorare meglio il nostro interio tramite tutte queste batoste. Allora, siamo fortunate perché naturalmente quello che abbiamo perso evidentemente non era quello che cercavamo, non ci appagava in pieno, eravamo tristi, arrivato a un certo punto, dopo che finisce l'euforia iniziale, si precipita nel nostro conforto. Sì, precipitiamo, che è bello. E poi, insomma, alla fine, dopo, insomma, rialziamo la testa e ci guardiamo di nuovo intorno, sperando di trovare qualcosa di bello, se esiste per noi, sempre. Sì, ma la cosa però che dobbiamo dire è che i diaframma non dicono, la cosa che non dicono i diaframma è che la diciamo noi, che alla fine la cosa più bella poi esiste, amore, tutto, però insomma, la ricchezza più grande, come diceva, non mi ricordo quale filosofo greco, forse, non lo so, è il fatto invece di quello che siamo noi, quindi forse questa è la cosa più, è per questo che dicevo di fortuna, alla fine siamo fortunati proprio perché scopriamo tramite tutte queste cacate di storia, e scopriamo invece quello che siamo noi, quindi la nostra grandezza siamo noi stessi e altri magari non se ne rendono conto. È vero, conosciamo noi stessi nell'intimo, nel profondo, perché poi dietro c'è tutta un'elaborazione, un logorio, un qualcosa per riuscire a capire qual era il problema, che cosa è successo. E via dicendo, è vero, conosciamo meglio noi stessi, il nostro animo, i nostri sentimenti, i nostri pensieri. Socrate diceva, conosci te stesso. Ecco, Socrate per mezzo di Platone. Notis auton. Ecco, la greca. E qua siamo proprio nella cultura più sfrenata, insomma, perché qua non è che... Vabbè, sono quelle nozioni che si imparano e che no, tieni no. Proprio nozioni, siamo nella cultura più sfrenata qui. Vabbè. Bene, continuiamo comunque ad ascoltare qualche pezzo dei diaframma e poi diremo altre due o tre stronzate del genere, insomma. Però voglio concludere con un'altra frase, che è quella famosa, carpe diem, che bisogna cogliere l'attimo, bisogna crederci in quel momento che è un grande amore, bisogna viverlo. Questa mi è piaciuta assai, e dopo il carpe diem moraziano, andiamo avanti. Love is real, real is love. Love is feeling, feeling love. Love is wanting to be loved. Love is touch, touch is love. Love is reaching, reaching love. Love is asking to be loved. Love is you, you and me. Love is knowing we can be. Love is free, free is love. love is living, living love. Love is needing to be loved. E siamo di nuovo qui alle officine, finalmente abbiamo con noi qualche ospite, non dovete ascoltare solo le mie cazzate, diciamo così, ma ci sono anche le cazzate di Virginia. No, però no, non sono cazzate, è vero, ci sono cose di alta cultura. No, no, vabbè, è lo sclero totale, insomma, esatto. A questo punto si sclera e basta, purtroppo i problemi nella vita sono tanti e bisogna pure approfittare di questi piccoli momenti per poter un pochino rialzarsi, un pochino, un attimo di follia, giusto un minuto. Esatto, per esatto. Per staccare con la mente, coi pensieri. Ora, però ascoltiamo l'ultima canzone davvero dei Diaframma, anche questa è una cover. Ora, anticipiamo questo, che Federico Fiumani non è che abbia un accento micidiale in inglese, non sappiamo perché, insomma, non so quando canti in inglese, qualche problema. Però vabbè, niente, ascoltiamo questo testo, questa canzone, questa cover dei Love di John Lennon, ecco qua, ascoltiamo questa cover che è contenuta in Confidenziale, un album del 1994, questo album molto interiore, già dal titolo stesso, no? Capiamo questo, è un po' interiore come questa puntata, insomma, che vede queste riflessioni sull'amore. Bene, io direi che il freddo delle officine comunque non ci ha piegato, vero Luigi? No, no, no, siamo ancora vive. Forse perché tu sei arrivata in ritardo. È probabile, ma dimmi una cosa, ma quello è un abito da sposa, perché... Allora, in tema con la... In realtà tutti credono sia un abito da sposa, in verità no. Dovete sapere che nelle officine c'è questo costume di scena fatto con delle buste da una ragazza delle officine, Vera Staropoli, che ha realizzato questo abito bianco che tutti credono sia da sposa, in realtà non lo è. Perché noi non ci sogneremmo mai di mettere una cosa del genere, insomma. Oh vabbè, però insomma, proprio in extremis, voglio dire, un matrimonio che capita all'improvviso, indosseremo pure questo, tanto. Alla fine l'abito non fa il monaco. No, no, no, noi credo... Saremmo delle spose originali. No, io credo di non vedermi mai in questo ruolo, a ogni modo. Non si sa mai nella vita, mai dire mai. No, no, no, no, sì, no. Sì, sì, presto no. Sposa. Ma che cazzo, facciamo gli scongiuri su questa affermazione della nostra amica, perché no, no, no. A ogni modo niente, ma tu lo esorcizzi il matrimonio, dici così perché lo vedi come un qualcosa che non potrai mai, che ne so, no, no, noi siamo contro queste istituzioni, noi siamo contro le istituzioni, quindi no, no, no, no, no, noi siamo contro. E contro. Se arriva il principe azzurro, quello che non esiste. Appunto, proprio in virtù del fatto che non esiste, perché magari è morto appena nato, è scattato. Vabbè, l'utopia non so se... può sempre realizzarsi, no? Ma noi siamo utopici, infatti. Quello sì. Sì, le utopie proprio. Allo stato puro. Le utopie galoppano qui dentro. Bene, niente, io direi che ci ascoltiamo questa canzone di Diaframma. Vi ricordo che siete all'ascolto di Transizione di Fase e di questo programma Figli di, che oggi è andato in... che oggi è andato, beh, è una differita, non siamo in diretta, prima o poi lo saremo, che in questo primo numero vede la collaborazione anche di Virginia, che ci è venuta a trovare qui alle officine. Quindi se voi passate, siete a Cosenza, passate alle officine, magari aprite la porta, ci venite a trovare, magari ci siamo... Magari durante la fiera, che è molto bello, è particolare, è caratteristico. Anche se quest'anno, insomma... quest'anno... Tutto è tranne che fiera. Quest'anno il nostro chiuto ci si vuole bene. Si è superato. Come le luci di carnevale, insomma, certo, no? Lo possiamo dire che ci sono queste luci. Il corteo di carnevale. Le luci di carnevale che le ha piazzate qui è da Natale. Da Natale e che arrivano a carnevale. Abbiamo capito finalmente che cosa sono quelle luci a Piazza Fera, soprattutto. Piazza Fera sembra una discoteca proprio adatta a questo periodo. Esatto, la discoteca di Piazza Fera magari faranno anche un concerto, non so. Ma perché no? Oh, possiamo anche chiedere a Oh, possiamo pure chiederlo chiuso se vuole far venire Diaframma, insomma, magari. No, è bello, ma non dubitiamo. Rock, dubitiamo, forte. No, no, no. Li faremo venire noi qui alle officine. Va bene. È un'altra di quelle utopie. Comunque, niente, io direi di ascoltare questa ultima canzone, questa cover di John Lennon, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, e noi speriamo di essere sempre puntuali, perché fino ad ora non lo siamo stati affatto. Nella nostra tipica veste cosentina lo rivendichiamo, questo fatto della non puntualità, ecco, sì. Siamo lenti e non siamo puntuali. A Milano se ne accorgono da come camminiamo, che noi veniamo dal sud, dalla Calabria. No, io no, io cammino velocemente, questa no, cosa no. Invece no, mi hanno detto tu non sei milanese, cammini troppo piano, sei lenta. A me hanno detto il contrario, comunque ok. Vabbè. Vabbè. E forse perché tu ne hai incontrato uno milanese, io ero proprio nella terra. Nella terra di Milano. No. In quel di Milano. In quel di Berlusconi, perché era proprio Milano 2, quindi c'era proprio, si respirava aria fantastica. Un mondo fantastico, insomma. Certo, c'è il laghetto con i cigni. Wow, bello. Allora, niente, io direi che concludiamo qui questo programma che è stato dedicato, che ha avuto come ospiti in contumacia di Afamma, ospiti che non sapranno mai di questa trasmissione, magari, però sono stati noi ospiti. Li abbiamo pensati. No, li abbiamo pensati e ci hanno fatto pensare. Bene, io direi che vi dare appuntamento alla prossima volta e soprattutto se Virginia vorrà sempre accodarsi a noi ci farà sicuramente molto piacere. Intanto salutiamo Ciccio Noto che dirà sta preparando la bancarella delle officine per la fiera. Si sta dilettando in mille idee, mille progetti. Mille progetti, salutiamo anche, non sappiamo in che veste o restaccio, perché insomma gira qui in questo programma, non si capisce. E salutiamo anche Guglielmo. Ancora non l'abbiamo visto. No, non fa niente. E muovo ammazza che sento questa cosa. No, non si è mai. E poi salutiamo anche Guglielmina, la nostra co-conduttrice, che in questo momento ha delle incombenze molto pressanti. E vi ricordiamo che comunque, forse, molto probabilmente, ci saranno anche degli speciali durante la fiera da parte di FIGD, quindi rimanete sempre all'ascolto di Transizione di Fase e rimanete in aggiornamento con noi, rimanete in contatto con noi e continuate ad ascoltare Transizione. La natura violenta dell'amore conduce noi a cercare un poco di conforto dentro gli occhi suoi. Lei gli nega anche quel misero sguardo perché sa qual è la distanza tra due occhi e un mondo chiuso dentro sé. La natura violenta dell'amore lo sa qual è, lo riporta per il sogno chiuso dentro un po'. Ma come fa l'amore a ragionare il cuore? Ma come fa l'amore a ragionare il cuore? Giovane e già volato via.